Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che si impegna a capovolgere le priorità e l'agenda delle notizie mettendo gli altri animali in pole position. Cerchiamo di capire insieme come sarebbe la vita sulla Terra se noi umani riuscissimo a negoziare un nuovo patto di convivenza con i viventi non umani. Questa è la puntata numero 647, nella quale parleremo degli effetti del grande caldo sugli animali non umani, della fuga di un pericoloso toro, anzi no, di un innocuo vitello, e parleremo di alcuni episodi di cronaca nera che coinvolgono cani pitbull, con una riflessione a cura dei nostri carissimi amici Troglodita Tribe. Speriamo di avervi incuriositi. Cominciamo la nostra carrellata di notizie dagli Stati Uniti, dove un'ondata di calore ha ucciso migliaia di mucche d'allevamento. In rete potrete vedere immagini drammatiche di questa strage. Il problema è vasto perché più di 20 stati negli USA stanno sperimentando temperature pericolosamente calde. E a esserne vittima non sono soltanto i quasi 100 milioni di abitanti umani, ma anche e soprattutto le migliaia di bovini che a causa delle temperature estreme sono morti in Kansas. Si stima infatti che fino a 10.000 mucche siano state uccise. Su Twitter è stato condiviso un filmato ripreso da un veicolo in transito in un allevamento coinvolto dal fenomeno. Le immagini mostrano una lunghissima e agghiacciante fila di animali morti, le cui carcasse sono riverse su un terreno siccitoso e riarso dal sole. L'area è quella di Ulysses, comune e capoluogo della contea di Grant. Il dottor Tarpoff, che è veterinario e collabora con l'Università Statale del Kansas, ha spiegato la dinamica. Si è verificata una tempesta perfetta che ha condannato a morte il bestiame a causa delle temperature notturne troppo elevate che hanno impedito alle mucche di liberarsi dal calore accumulato il giorno prima. I bovini infatti accumulano calore durante il giorno e durante le ore notturne impiegano dalle 4 alle 6 ore per disperdere quel calore. Finché abbiamo un effetto rinfrescante di notte, i bovini riescono a resistere anche a temperature diurne molto elevate. Ma se per 2 o 4 giorni consecutivi manca il raffreddamento notturno, le mucche iniziano la giornata seguente con un carico di calore accumulato dal giorno prima. Inoltre l'ondata di calore si è presentata troppo presto, sempre in conseguenza dei cambiamenti climatici che comportano fenomeni sempre più estremi, frequenti e anticipati. A metà giugno, spiega sempre il dottor Tarpoff, molti di questi animali non si sono ancora liberati completamente della pesante pelliccia invernale, che ovviamente in caso di caldo estremo rappresenta un supplementare pericolo. A questo si aggiunge il fatto che le mucche americane nella maggior parte dei casi sono nere e questo significa che hanno una difficoltà ancora maggiore a disperdere il calore accumulato. Gli animali morti che si vedono nel video sono inoltre molto grassi e anche questo è un fattore che può aver contribuito alla perdita dell'intera mandria. La stazza di questi animali non è casuale o naturale. Dipende dalla selezione genetica, dall'alimentazione e dallo scarso movimento degli animali d'allevamento, che non hanno necessità di spostarsi per trovare da mangiare o da bere e che quindi non svolgono una vita dinamica. Gli allevatori di bestiame, come in altre parti del mondo, stanno piangendo miseria per il costo dei mangimi salito alle stelle, per i noti problemi legati al conflitto in Ucraina. Ma gli allevamenti di bestiame sono anche artefici di questa situazione, perché gli animali producono enormi emissioni di gas a effetto serra, con conseguenze imprevedibili e pericolose. Ancora allevamento, ma dagli Stati Uniti passiamo all'Italia per parlare della crisi idrica. Le alte temperature rendono sempre più difficile la situazione in agricoltura, lo afferma Coldiretti, facendo notare che manca l'acqua necessaria a irrigare le coltivazioni. La situazione di stress idrico mette a rischio le produzioni in buona parte del paese. in un 2022 segnato finora da precipitazioni praticamente dimezzate. La situazione più grave è quella in Piemonte e in pianura padana, dove per la mancanza di acqua è minacciata oltre il 30% della produzione agricola nazionale e la metà dell'allevamento. A questo punto però non possiamo evitare una riflessione sulle nostre abitudini alimentari e su come queste incidano sul consumo di acqua. I più recenti studi affermano che l'impronta idrica media per caloria della carne bovina è 20 volte maggiore di quella dei cereali e degli amidi. Quando osserviamo il fabbisogno idrico per le proteine, scopriamo che l'impronta idrica per grammo di proteine per latte, uova e carne di pollo è circa una volta e mezzo maggiore rispetto ai legumi. Per la carne bovina, l'impronta idrica per grammo di proteine è 6 volte maggiore rispetto ai legumi. Gli studi mostrano che dal punto di vista delle risorse di acqua dolce è più efficiente ottenere calorie, proteine e grassi attraverso i prodotti delle colture rispetto ai prodotti animali. Facciamo qualche esempio. Per produrre un chilo di carne di origine bovina servono 15.139 litri d'acqua, per il maiale 5.988, per il pollame 4.325. In ordine decrescente per impronta idrica, alla carne seguono gli altri prodotti di origine animale, come il formaggio, 5.253 litri d'acqua per ogni chilo di prodotto. Passiamo al mondo vegetale. Per le proteine dei legumi il consumo d'acqua è di 4.055 litri, quindi meno di qualsiasi altro prodotto proteico di origine animale. Passiamo poi ai cereali, 1.597 litri per il riso, 1.509 litri per la pasta, 902 litri per produrre un chilo di pane. Frutta e verdura richiedono uno sforzo idrico nettamente inferiore rispetto a quello degli alimenti di origine animale. Per un chilo di verdura occorrono in media 336 litri d'acqua e per la frutta ne sono necessari in media 962. Patate e tuberi sono fra gli alimenti con la minore impronta idrica in assoluto, solo 287 litri. Ci chiediamo a questo punto come sia possibile che non parta, in questa situazione di crisi climatica e idrica, una grande campagna per il superamento dell'allevamento, a favore di un'alimentazione prevalentemente vegetale. In questa fase ci sembra che nessuna forza politica ed economica stia promuovendo un serio progetto di riconversione degli allevamenti. Nessuno ovviamente vuole che gli allevatori vadano in miseria, ma sarebbe saggio iniziare adesso a incentivare anche con aiuti economici e sgravi fiscali riconversioni a produzioni diverse, meno idrovore, meno inquinanti. E invece la cosa paradossale è che si insiste sovvenzionando con denaro pubblico attività tradizionali ormai palesemente insostenibili, nocive e obsolete. E se la politica non ha idee per affrancarci dei costi ambientali dell'allevamento, alcuni privati invece si stanno ingegnando. È di questi giorni la notizia di Remilk, una startup israeliana fondata nel 2019 che ha annunciato di aver raccolto 120 milioni di dollari per aprire un'enorme fabbrica in Danimarca dove verrà prodotto in larga scala, pensate, latte sintetico. Quindi non una bevanda vegetale alternativa al latte vaccino, ma un vero latte di vacca realizzato però interamente in laboratorio. Remilk non si limiterà a produrre latte, ma anche una serie di prodotti ad esso collegati, latticini nutrienti, deliziosi e convenienti, che manderanno le vacche in prepensionamento. Questo ovviamente è il messaggio dell'azienda Remilk. L'episodio ha puntualmente acceso il dibattito e tra i più strenui oppositori del latte sintetico c'è senza dubbio la Coldiretti, visto che in Italia c'è una tradizione casearia che non ha alcuna intenzione di riciclarsi o reinventarsi. Novità come la carne e il latte sintetici sono risposte a una particolare attenzione, sempre crescente da parte dei consumatori, verso l'impatto della produzione di cibo sull'ambiente e anche verso il tema dello sfruttamento animale. I nostri allevatori dovrebbero farsene una ragione e soprattutto dovrebbero iniziare a farsi venire qualche nuova idea. Ancora calore, ancora animali, stavolta però siamo in Europa e parliamo di animali selvatici. In Spagna centinaia di piccoli esemplari di rondone, Apus apus, una specie volatile protetta, sono stati ritrovati a terra stremati dal caldo o spesso purtroppo anche già morti per le strade di Siviglia e Cordoba. È la situazione che viene segnalata negli ultimi giorni da associazioni animaliste ed abitanti delle due città del sud della Spagna. Situazione causata da un'intensa e inusuale ondata di calore. Lo riportano diversi media iberici. Come segnala, ad esempio, El País, tale circostanza sta facendo sì che personale e volontari del Centro per il Recupero di Specie Minacciate, creato proprio per tutelare animali a rischio, sono travolti dalla quantità di lavoro necessario per prestare assistenza a questi uccelli in difficoltà. Il rondone, infatti, tende a costruire il proprio nido in cavità esistenti tra edifici, punti che purtroppo si scaldano fino a superare i 40 gradi. I piccoli cercano di sfuggire a tale situazione, gettandosi dai nidi. Ricordiamo che i rondoni sono animali che vanno senz'altro aiutati se si vedono a terra, perché per come sono progettati possono solo lanciarsi dall'alto per volare, non sono in grado di alzarsi da terra. Per cui se vedete il tipico rondone con le lunghe ali aperte per terra, bisogna in qualche modo che lo aiutiate chiamando un CRAS, consegnandolo a un centro specializzato dove possono verificare qual è il suo problema e eventualmente farlo di nuovo involare. Baby, I'm amazed the way you love me all the time. Maybe I'm afraid of the way I love you. Maybe I'm amazed the way you pulled me out of time. You hung me on a line. Maybe I'm amazed the way I really need you. Maybe I'm a man, maybe I'm a lonely man who's in the middle of something that he doesn't really understand. Cambiamo argomento per parlare di cani e in particolare parliamo di pitbull. Negli ultimi giorni si sono verificati 3 episodi di aggressione da parte di cani tipo pitbull. Il più grave è quello che è avvenuto all'alba del 19 giugno a Cerignola, nella campagna del Foggiano, dove un 66enne senza dimora è morto dopo essere stato azzannato da 2 cani pitbull in una masseria abbandonata. A quanto si apprende, i 2 animali erano liberi quando hanno aggredito l'uomo. La vittima, di nazionalità slovena, è stata morsa in varie parti del corpo. È morta dissanguata e a nulla sono valsi i tentativi del proprietario degli animali, un uomo originario della Polonia, poco più giovane della vittima, di allontanare i cani. Lo stesso padrone dei cani è rimasto ferito e adesso si trova in ospedale. Ma c'erano stati altri 2 episodi precedenti. A Pisa, il 15 giugno scorso, un 62enne ha prima aggredito per strada una donna di colore con percosse e frasi razziste. Poi ha liberato il cane che aveva con sé, un pitbull, aizzandolo ad attaccare l'agente di polizia intervenuto per difendere la donna. E infatti l'agente è stato azzannato all'addome e a un gluteo. L'uomo, però, è stato arrestato e il cane è stato acchiappato, è stato purtroppo affidato a un canile. Giovedì 16 giugno a Cantù, in provincia di Como, in via Villaggio Trieste, una bambina di 7 anni è stata morsa al volto dal cane pitbull di suo fratello. Questo pitbull aveva avuto da poco dei cuccioli. La bimba voleva accarezzarli, ma percependo quell'azione come un pericolo per i suoi piccoli, il cane, femmina, ha reagito con aggressività, mordendo la bambina a una guancia. La bimba, che contrariamente ai titoli allarmistici non è mai stata in pericolo di vita, è stata operata immediatamente per ricomporre la ferita e l'operazione è riuscita. I cani pitbull, dopo episodi di aggressione, vengono sequestrati e affidati a un canile della zona. Alcune associazioni animaliste hanno fatto richiesta di ottenere in gestione questi animali per evitare la loro soppressione. Il cane, come ricorda l'associazione Lega Nazionale del Cane, è lo specchio del proprio compagno umano. Ovviamente esiste anche il problema degli allevatori che a volte puntano proprio a ottenere un'elevata aggressività nei cani quando li allevano selettivamente. E allora li addestrano a reagire con violenza attraverso azioni di terrore o percosse e altre modalità cruente e discutibili, anche se questo è illegale, purtroppo è ancora molto praticato. Non conoscendo l'origine di un cane pitbull e il modo in cui è stato addestrato, è ancora più importante che questo tipo di cane non finisca nelle mani sbagliate. Per questo bisogna incentivare l'informazione, adozioni responsabili e sgretolare una volta per tutte la cattiva ed erronea fama che hanno questi cani. Vi proponiamo, a proposito di queste vicende, un commento dei Troglodita Tribe, autori del libro Chiudiamo i canili. Casa editrice Ortica. Ciclicamente la cronaca ci riporta le agghiaccianti notizie di cani che mordono individui umani, che ne provocano mutilazioni e a volte anche la morte. I casi, per quanto rari, vengono sempre trattati con enfasi e suscitano, come normale che sia, paura e diffidenza. Soprattutto se ad essere aggrediti sono i bambini, alimentano un immaginario che inquadra il cane, ma più in generale l'animale, come una bestia feroce e pericolosa che deve essere rinchiusa, abbattuta, tenuta lontano dalle nostre pacifiche società evolute e superiori. Eh sì, i cani mordono, questo è un dato di fatto. Hanno i denti e li usano anche come un'arma, soprattutto per difendersi, quando percepiscono una minaccia o un pericolo. Questo dato di fatto, che non dovrebbe sorprendere nessuno, è troppo spesso dimenticato, o perlomeno poco valutato, quando pensiamo e definiamo il cane come nostro migliore amico. In realtà abbiamo sempre cercato di selezionare i cani e manipolarli per ottenere individui fedeli, docili, utili e servizievoli, individui belli da vedere e da toccare o al contrario individui feroci e minacciosi che tenessero lontani i malintenzionati dalle nostre case ma che fossero anche in grado di sacrificare la vita pur di difendere la nostra incolumità o le nostre proprietà. In sostanza, li abbiamo scelti anche per la loro naturale aggressività, per il fatto che usassero i denti anche per mordere. Quando però in questa operazione di selezione qualcosa va storto, ci scandalizziamo, chiediamo che si prendano provvedimenti contro i cani, magari contro qualche particolare razza che nell'immaginario collettivo, ma quasi mai nelle statistiche e negli studi documentati, viene identificata come più feroce e mordace delle altre. È un atteggiamento radicalmente specista, dove l'amicizia in realtà c'entra poco o nulla. Manipolare i cani per fare in modo che rispondano alle nostre esigenze, per poterli meglio utilizzare e sfruttare, è infatti una forma di dominio che caratterizza il nostro normale rapporto con loro e con tutti gli altri animali. All'opposto, una forma essenziale di rispetto e di amicizia dovrebbe spingerci, tanto per cominciare, a considerare i cani come individui dotati di una naturale aggressività. Individui che potrebbero usare i denti proprio come noi potremmo utilizzare le mani. Individui che una volta sottoposti a forti cariche di stress, come ad esempio durante la prigionia, quando si è costretti in ambienti malsani e isolati, quando manca la socialità con i simili, potrebbero trasformare questa naturale aggressività in un vero e proprio attacco. Esattamente come accade a noi umani. Questo rispettoso riconoscimento allora ci spingerebbe con più facilità a cercare di capire il loro linguaggio, i loro messaggi, i loro bisogni essenziali. Ci spingerebbe a riconoscere il disagio che esprimono, a prendere provvedimenti per cercare di arginarlo, per smettere di provocarlo. In realtà, i trafiletti che documentano le aggressioni da parte dei cani raramente ne forniscono anche una dettagliata ricostruzione e tendono, più che altro, a sottolineare la ferocia del cane e il dramma della vittima umana. Ma a voler approfondire, poi, viene alla luce quasi sempre una situazione di frustrazione, di isolamento, di squilibrio da parte del cane che, nel corso della sua vita, non ha avuto la possibilità di confrontarsi, di fare esperienze, di distinguere una normale situazione da una reale minaccia per la sua incolumità. Nella maggior parte dei casi, infatti, il cane aggredisce proprio per difendere se stesso o i suoi cuccioli, per rispondere a ciò che percepisce come un pericolo imminente, anche se non è tale. Si scopre allora come il malaugurato incontro è stato carico di malintesi, come è arrivato al drammatico risultato finale dopo una lunga serie di difficoltà da parte del cane stesso, che, dal canto suo, ha tentato in ogni modo di comunicare un disagio. Ma la risposta al disagio di un cane, quasi sempre, è la reclusione in un canile dove la paura, l'isolamento, la depressione, la rabbia, immancabilmente, aumenteranno fino a diventare un baratro senza via d'uscita. Il cane, che esprime un disagio, infatti, è identificato come una scocciatura, un fastidio. Difficilmente si cerca di mettere in discussione le motivazioni che l'hanno generato. Difficilmente si è disposti a prendere i provvedimenti essenziali che necessitano di attenzione e professionalità. Dopotutto, le nostre comunità, che consideriamo così pacifiche, evolute e liberali, ma che soprattutto consideriamo essere composte da individui umani e superiori, non sono disposte ad andare incontro ai cani, a compiere il minimo passo indispensabile, a studiare il loro linguaggio, le loro elementari caratteristiche etologiche, il loro modo di esprimersi e di comunicare. Non sono disposte ad adattare le architetture, i paesaggi, gli stili di vita, tenendo conto anche della loro presenza. Così continuiamo a scegliere i nostri migliori amici in base al colore del pelo, alla razza, alle mode o alle caratteristiche fisiche che potrebbero tornarci utili, che potrebbero piacerci o intenerirci. Continuiamo a comprarli e a venderli come merce che stocchiamo nei canili quando smette di soddisfarci o crea qualche problema di convivenza. Veri e propri campi di concentramento dove i cani che esprimono un disagio vengono rinchiusi, luoghi dove non è possibile neppure iniziare un percorso di recupero. Ed è qui che finiscono i cani che mordono, senza via d'uscita. Ma i cani, quando ci mordono, esprimono un disagio esistenziale che ci riguarda profondamente. Lo fanno quando, arrivati ormai al limite della frustrazione, non hanno altra scelta. Sono la rappresentazione del baratro specista a cui li stiamo conducendo. E invece di cercare di comprendere, riparare, favorire, tendiamo a creare lo scandalo della bestia feroce, fin quasi a dimenticare che stiamo camminando insieme a loro da millenni, un privilegio che probabilmente non abbiamo mai meritato. The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass. Remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon, and if there is no room upon the hill, and if your head explodes with dark foreboding too, I'll see you on the dark side of the moon. Il 15 giugno pomeriggio a Collegno, alle porte di Torino, è scappato un bovino che è stato subito definito, negli annunci e nei titoli, un toro potenzialmente pericoloso, con l'invito per chi lo avvistasse a rivolgersi al 112 o al comando di polizia municipale. Il comune ha attivato la protezione civile e sono partite le ricerche. La fuga è cominciata al rifugio Blonda Ruffa di via Piossasco, nel parco della Dora, gestito dall'associazione Vivi gli Animali, che ospita tra gli altri animali salvati dal macello, da situazioni di maltrattamento o abbandono. L'animale era appena arrivato lì dall'astigiano. È fuggito saltando una recinzione al suo arrivo, probabilmente per lo spavento. L'associazione ha subito precisato che il bovino fuggito in realtà era un vitello di 15 mesi e che non era affatto pericoloso, ma ormai lo psicodramma era scattato. Thor, il suo nome, è scappato saltando la recinzione, ma nessun nostro volontario è stato ferito, hanno spiegato i ragazzi del rifugio Blonda Ruffa. Il clima di terrore che si sta diffondendo ci fa preoccupare sempre di più. Stiamo parlando di un animale terrorizzato, hanno aggiunto, e noi vorremmo solo riportarlo a casa, al sicuro, dove i volontari potranno garantirgli le cure adeguate. L'esito più temuto era che Thor attraversasse qualche strada, rischiando poi di essere abbattuto. Fortunatamente la storia è finita bene. Dopo 3 giorni di ricerche, Thor è stato recuperato nell'area del Parco della Dora, alle spalle del canile Cascinotto, grazie a un safari a fin di bene con camioncini pick-up che lentamente hanno circondato l'animale e grazie a dardi narcotizzanti che dopo 2 tentativi andati a vuoto lo hanno finalmente addormentato. La storia di Thor, che inizialmente era chiamato Peppino, ma che poi si è guadagnato il soprannome mitologico grazie al suo ardente temperamento, è costellata di fughe. Giovanissimo era scappato dal suo allevamento ed era sopravvissuto per quasi 5 mesi nei boschi da solo. Quando è stato ripreso, era destinato al macello per farne carne confezionata, spiegano i volontari, ed è lì che abbiamo deciso di salvarlo noi. Appena arrivato al rifugio, dopo un viaggio di 60 km caricato probabilmente sul camion con modi poco gentili e terrorizzato da qualunque cosa si muovesse, Thor è scappato saltando la recinzione. A nulla sono serviti i tentativi per farlo rientrare. Thor è fuggito in mezzo ai campi. Ora Thor è di nuovo al sicuro. Purtroppo, come redazione, abbiamo censito tantissimi casi in cui una fuga è terminata con l'abbattimento. Siamo per questo motivo ancora più felici dell'esito della storia di Thor e gli auguriamo una lunga vita serena grazie alle cure dei volontari del rifugio che si occuperanno al meglio di lui. Sound of thunder, sound of gold, sound of the devil breaking through. Ricochet, ricochet. Questa puntata è tutto. Vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione al completo, composta da Valentina Reggioli, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Anna Granata, Gianluca Masala, Francesco Pagnè e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 648 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta. Stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali.